ti sei fatto una matrona, tutto il giorno stai in poltrona a dondolarti su e giù. Ramona, son passati tempi belli, grigi sono i tuoi capelli, dimenticata sei tu. Con la tua voce tremante sempre vuoi cantare quel tuo nostalgico valzer di vent'anni fa. Oh Ramona, tu brillavi più del sole, eri tu il più grande amore, adesso invece sei qui a ricordare quel dì. Di più del sole, eri tu il più grande amore, adesso invece sei qui a ricordare quel dì.